quell'amore che fa salivare, colei che dall'amor si fa bruciare, la canto a quello che con un sospiro, con uno sguardo vi sa far morire, ed è fatale un dì verrà che vi farà danna. Sei l'amor d'ogni cuor, bella mia, donne qui, donne lì, bella mia, perché poi, chi lo sa, non sei bello, ma chissà, sai piacere, sai voler, sai godere, sai mentir, sai tradir, poi soffrire, cambi amor ogni dì, sei così, pur vorrei solo un dì, pianger sul tuo cuor così, bella mia.